Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno e benvenuti. Come ogni sabato apriamo le porte di Questa casa non è un albergo e qui comodo Alberto Pellai. Ciao Alberto. Buongiorno a tutti. Il mio inquilino preferito. Bello allegro è oggi. Sì, perché oggi facciamo con i nostri ascoltatori una specie di ripasso, per cui non fatichi molto. Ecco perché hai la penna in mano un po' come una maestrina. Sì, infatti oggi mi sento un po' così. Come succede a scuola, caro Alberto, adesso ci fermiamo e riprendiamo alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato fino a questo punto. Naturalmente con l'aiuto dei nostri ospiti che sono intervenute nelle trasmissioni a darci una mano, a dare anche a te una mano, Alberto. E allora guarda, partiamo da un tema che... Come al solito è un sempreverde, cioè in tutte le famiglie, tra l'altro adesso con le giornate che si allungano, il tempo bello, c'è tantissima luce, i figli non vogliono mai tornare a casa, specie nel fine settimana. E allora proprio su questo tema abbiamo realizzato una puntata, ascoltiamo come sempre la lettera che ci ha fornito lo spunto e poi andiamo a sentire i suggerimenti dei nostri esperti. Mio figlio di 16 anni improvvisamente quest'anno ha chiesto di poter andare almeno una volta al mese in discoteca e di ottenere per questa serata ora libera di rientro. Il che significa che esce alle 23 circa e rientra quando vuole lui. Quando gli ho fatto notare che sia io che sua madre potremmo avere qualcosa da contraddire al riguardo, lui quasi piangente ci ha implorato di non opporci a questa sua richiesta, perché rischierebbe di diventare lo zimbello di tutto il suo gruppo di amici. Discutendo con lui, ci siamo resi conto che la sua richiesta è prassi consolidata per tutti quelli con cui esce da quest'anno nel fine settimana. Qui si apre un dilemma. Dettare noi le regole e inimicarci un figlio, oppure salvarlo dalla vergogna sociale e lasciare che faccia ciò che tutti fanno alla sua età? Cosa ne pensate voi e soprattutto cosa ne pensano gli altri genitori della vostra trasmissione? Luca, 48 anni. Ci faremo aiutare oggi dal nostro ospite, il dottor Giuseppe Maiolo, psicologo e psicoterapeuta, autore di molti libri sull'adolescenza e due in particolare, di cui parleremo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Chiediamo al dottor Maiolo, che tra l'altro segue una scuola genitori a Bolzano, alla quale sono iscritti più di 400 genitori, se questo è un tema che davvero manda in crisi le mamme e i papà dei figli adolescenti di queste nuove generazioni. È un tema che ritorna frequentemente nelle consultazioni dei genitori quando chiedono di essere aiutati a trovare una soluzione, perché non sanno, si dibattono su questo argomento che è fonte di infinite liti. Io direi che in effetti questo è un po' strettamente connesso anche a un cambiamento, come diceva si diceva prima, magari una volta era mezzanotte il rientro, adesso l'ora si è spostata per motivi diversi, però è vero anche che è strettamente connesso alla competizione adesso che è sorta tra la famiglia naturale e la famiglia sociale, no? Dove appunto la famiglia sociale, la società, il gruppo degli amici preme per far mostrare quanto diversa sia ormai la realtà, no? E quindi la realtà è fatta di tornare a casa non prima delle 3, delle 4 della mattina. Perché tutte le discoteche aprono tardi, ai miei tempi invece le discoteche aprivano alle 9 e quindi si tornava a mezzanotte, però è come dire, il fatto anche che è un rito quello del rispettare un orario oltre il quale ci sono i pericoli. Una volta era appunto la mezzanotte di Cenerentola, adesso probabilmente le Cenerentole sono diverse. Ho due figlie, una di 14 e l'altra di 10 anni, ci scrive Giuseppe. Sono assolutamente contrario ad una gestione delle uscite senza regole. Servono le regole per vivere, ci scrive appunto Giuseppe. Regole. Giorgio da Bologna dice: se un genitore non detta le regole, qual è il suo mestiere? Alessandra da Treviso, che non ha figli, dice ai genitori: comunque siate più severi. Il padre che detta delle regole diventa uno schiavista e gli psicologi ti dicono che sei un matto. Dottor Maiolo, dite no, così. Non credo che gli psicologi dicano che i padri sono matti se pongono le regole. Credo che effettivamente ci sia del vero in quello che dice quando dice che i padri oggi fanno fatica a essere convincenti, ad avere una posizione appunto normativa, no? Perché? Perché in fondo oggi ci siamo spostati più sulla famiglia affettiva, che quindi cerca di comprendere, che cerca di capire, questo è il punto, e dove sta perdendo perlomeno consistenza il valore della regola. I ragazzi, a mio avviso, non è che non abbiano il senso e il bisogno di regole, anzi molti lo dicono, a me capita spesso di sentire ragazzi che mi dicano: vorrei sapere da mio padre, da mia madre, molto spesso citano proprio il padre perché lo vogliono chiamare in scena, cosa posso fare, fin dove posso arrivare. Quindi è forse di più l'inconsapevolezza dell'esistenza delle regole. Però noi lo sappiamo bene che quando un ragazzo vuole uscire e noi, i suoi amici tornano tardi e noi, io lo dico per esperienza perché ne ho due, e noi diciamo: no, tu fai il piacere che torni a mezzanotte e mezza, ma allora è inutile che io esca, tutti tornano, e uno poi cede. Cioè anche a noi genitori verrebbe voglia di mettere delle regole, e poi da lì si discute, si cerca di, no, di patteggiare un orario che vada bene a noi e quindi e vada bene a loro. Alberto, ma direi che c'è, cioè, il padre che detta le regole, punto, oppure il padre che dà i soldi e dice a un figlio: vai e fai quello che vuoi. Probabilmente c'è proprio una via di mezzo tra un padre totalmente permissivo e forse un padre che è soltanto autoritario. È proprio quel lavoro di discussione della regola che dicevi tu, Nicoletta. Io penso che un adolescente fa il suo mestiere nel momento in cui prova a rubare i massimi spazi di libertà ai suoi genitori, ma non sa esattamente cosa c'è dentro a quel pacco dono che si chiama libertà, e i genitori devono fare il loro mestiere dando dei pacchetti progressivi, cioè cominciando a regalare un pacchetto piccolo piccolo di libertà. Quando tu hai imparato a gestire quella, puoi avere un pacchetto più grande, via dicendo. Cioè bisogna davvero, se io ti dico torno a mezzanotte e tu mi dici torno alle 5, forse non c'è la via di mezzo all'inizio. Allora faccio un allargamento della mia cosa e dico mezzanotte. Voglio dire, andiamo nel concreto, perché noi genitori, certo, abbiamo in questo momento, stasera e sabato, i nostri ragazzi vorranno uscire. A 15 anni un gruppo di amici e la regola di un gruppo di amici è più potente, più protettiva della regola che ha in testa un papà o una mamma? A 15 anni secondo me no, perché un ragazzino di 14-15 anni sta cercando di conquistarsi la vita. A 14-15 anni si sta a casa, punto. Cioè io non voglio sentire magari ragioni. È proprio importante, ecco, fare anche questo pensiero. Cioè l'adolescenza, l'abbiamo detto tante volte in trasmissione, è lunga. C'è una prima adolescenza, una seconda adolescenza, una terza adolescenza e poi si diventa grandi. Nella prima adolescenza la tua quindi, cassetta degli attrezzi anni. Tra i 14 e i 16 anni siamo proprio totalmente prima adolescenza. Tra 16 e 18 anni si fanno delle piccoli prove di voli. Volo e dai 18 ai 22 anni fai la tua sperimentazione. Cerchiamo però di creare delle alleanze, delle relazioni, di metterci, no, intorno ad un tavolo con i nostri figli e parlare, perché una soluzione secondo me che accontenti sia noi che loro si trova. Tra l'altro, a proposito di alleanze, il dottor Maiola ha scritto un libro molto interessante che vi consiglio di leggere, possiamo mettere il bollino blu di Questa casa non è un albergo, si intitola Dalla parte degli adolescenti, alleanze e relazioni di sostegno, edizioni Erickson. Dottor Maiola, un saluto. Saluto anch'io a tutti. Questa casa non è un albergo. E noi siamo tornati qui vicini vicini, Alberto Pellai ed io. Continuiamo, Alberto, a riproporre e riascoltare alcuni dei temi che abbiamo trattato nella nostra trasmissione. Uno che a te è particolarmente caro, che è quello di educare alla legalità. Sentiamo. Sono la madre di due figli di 13 e 15 anni. Giovedì scorso ero in viaggio per lavoro e mi sono fermata all'autogrill. Uscendo proprio davanti alla mia auto c'erano tre ragazzini delle medie in gita che ridevano come matti e commentavano la loro ultima impresa. Erano riusciti a rubare un CD all'autogrill senza che nessuno se ne accorgesse e ne parlavano come di un'impresa epica. Li ho guardati storto, ma loro sono andati avanti a ridere. Poi in auto mi sono detta: e se i miei figli facessero la stessa cosa? È possibile che dei ragazzini delle medie non si rendano conto che rubare è un reato? Davvero il loro senso della legalità è così fragile? Come mai si ride di un furto all'autogrill proprio come si ride di una barzelletta? Che messaggi dobbiamo mandare noi adulti per aiutare i nostri figli a non sottostimare le conseguenze, a volte anche gravi, che potrebbero derivare dalle loro azioni penalmente perseguibili? Una mamma dubbiosa. Alberto, ti tiro subito in causa. Tu che cosa avresti fatto? Perché immagino che tu, se ti conosco bene, saresti già subito intervenuto dicendo a questi ragazzini: mi sembra il caso di ridere? Sapete che cosa avete fatto? Ma direi un che... adulto deve intervenire in questi casi o è giusto che faccia delle riflessioni un po', no? Dopo. Sai che noi siamo quelli della genitorialità sociale, sì, con il nostro programma, e credo proprio che chiaramente questi ragazzi stanno probabilmente ridendo e scherzando, felici della loro trasgressione, e direi che il primo approccio che bisogna usare con loro è proprio quello di far vedere che gli adulti ci sono, guardano, vedono e possono intervenire proprio in modo educativo. Io non in modo predicatorio, ma direi in modo interlocutorio, cioè aprirei un dialogo con loro. Direi, sono davvero molto colpito. Userei proprio la frase che questa mamma mette a metà della sua lettera: ma com'è possibile per voi ridere di un furto che avete appena compiuto allo stesso modo in cui ridereste di una barzelletta? E secondo me questo è un intervento molto potente. C'è una leggerezza, perché forse i ragazzi non si rendono conto che quello che loro considerano un po' delle bravate sono invece dei reati. Questo è un vero e proprio reato, e in realtà proprio di questo vogliamo parlare con la nostra ospite. Abbiamo in linea con noi Carla Colmenia. Buongiorno Carla. Buongiorno a voi. Carla ha appena pubblicato per le edizioni San Paolo un libro che ci serve in modo particolare oggi. Si intitola Valeria e Luca, la legalità a misura di teenager, e c'è proprio una frase con cui comincia il libro che dice: questo libro nasce dalla voglia di non mettersi nei guai che tutti dovremmo avere. Ma abbiamo appena ascoltato dalla mail che a volte gli adolescenti questa voglia di mettersi nei guai ce l'hanno particolarmente forte, e quindi sembrano non seguire il bisogno di legalità di cui parla anche il suo libro. Come mai? È davvero così? No, io non penso. Innanzitutto buongiorno a tutti quelli che mi stanno ascoltando e grazie per avermi ospitato. Io non penso che sia così, cioè non penso che ci sia proprio una voglia di mettersi nei guai. Piuttosto c'è la non consapevolezza che quelli sono guai seri. Infatti, anche secondo me, i ragazzi non hanno la percezione, pensano che sia un gioco da ragazzi. Esatto. Ed è proprio per questo che insieme all'associazione Valeria, che è un'associazione fatta da avvocati e giuristi di Milano, ho scritto questo libro. Lo scopo è proprio questo, cioè far capire ai ragazzi che gli atteggiamenti che si tengono quotidianamente, che possono andare dallo spintone alla parolaccia, alla scritta sul muro, fino al furto, come diceva questa mamma, in realtà hanno delle implicazioni anche serie e gravi, anche a livello penale. Quindi non sono semplicemente delle cose sulle quali ridere, ma sono degli comportamenti di cui ognuno deve essere responsabile. Carla, scusa, come fate a trasferire queste informazioni ai ragazzi? Guarda, noi ci abbiamo pensato molto, abbiamo lavorato per circa un anno, e tutto è nato da una iniziativa che ho voluto promuovere, proporre su una pagina settimanale del quotidiano per cui io lavoro per la provincia di Como. È una pagina che viene pubblicata per i ragazzi, ma è fatta dai ragazzi. In questa pagina ospitavo l'intervento dell'associazione Valeria, che in pratica si impegnava a tradurre con un linguaggio non solo da ragazzi, ma anche proprio facendo degli esempi molto pratici, molto concreti, i reati e le pene relative, cioè i guai in cui ci si mette. E così abbiamo fatto anche per il libro, cioè abbiamo raccontato la storia di due ragazzi, Valeria e Luca, che non solo si mettono loro nei guai, ma hanno degli amici che si sono messi nei guai e quindi cercano di venirne fuori in pratica, e lo fanno attraverso la figura molto simpatica, speriamo che risulti così anche a chi legge, di Margherita, che è una signora di 78 anni che ha una lavanderia in centro a Milano. In questa lavanderia arrivano le persone più diverse a portare i vestiti da lavare, dai magistrati, ai poliziotti, agli assistenti sociali, agli insegnanti, e lei fa le domande che fanno a lei Valeria e Luca a questi suoi clienti, e insieme cercano di risolvere le situazioni che sono situazioni reali che raccontiamo nel libro. C'è anche la situazione proprio del furto, nel nostro libro è di un iPod e non di un CD, ma la sostanza è quella. Quali sono i guai di cui fornite domande e risposte nel libro, cioè quali sono i pasticci penalmente perseguibili in cui più frequentemente si trovano coinvolti, loro malgrado, certo, e spesso proprio senza neanche esserne consapevoli i ragazzi. Esatto, esatto, il problema è proprio quello, come dicevamo prima, e noi parliamo appunto del furto, ma parliamo anche di tutti quei reati che possono derivare dagli atteggiamenti che, con una brutta parola, negli ultimi anni si definiscono atteggiamenti di bullismo, atteggiamenti dei bulli, ma anche ad esempio il segreto che gli insegnanti devono mantenere su quello che i ragazzi dicono nei temi, e anche qui, se si va contro questa riservatezza dovuta ai ragazzi, si compie un reato. Quindi non soltanto reati compiuti solo dai ragazzi, ma anche, i diritti che i ragazzi hanno, perché vogliamo spiegare ai ragazzi che essi hanno anche dei diritti e spesso non lo sanno, accanto ai doveri, che sono appunto quelli di non mettersi nei guai. Ecco allora che all'interno di questo libro noi abbiamo voluto riservare una parte anche proprio al diritto, soprattutto legandolo alla struttura familiare di oggi. Certo. Non ci sono soltanto le famiglie, diciamo, tradizionali, mamma, papà e bambini, ma ci sono anche le famiglie che nascono da separazioni, come i nostri due protagonisti. Valeria e Luca sono figli di genitori diversi che per 4-5 giorni alla settimana vivono insieme. E allora lì si prospettano una serie di questioni da risolvere, che riguardano anche proprio i diritti. Ad esempio, chi mi deve nutrire in questo caso? A chi aspetta darmi da mangiare? O ancora, se io ho un problema, a chi lo dico? Piuttosto che il diritto ad avere paura. Questa è una cosa molto importante. Spesso i ragazzi non denunciano, non dicono all'adulto che a loro è capitato qualcosa anche di grave o anche di meno grave, ma che comunque li ha preoccupati, perché hanno paura e pensano che l'avere paura sia una cosa brutta, sia una cosa da deboli. In realtà noi lo specifichiamo bene: aver paura è un diritto, e solo chi ha paura riesce poi ad essere coraggioso. Certo. Questo è molto Carla, importante. Il libro è molto interessante, i consigli sono tanti e soprattutto è scritto in modo molto chiaro. Ma Carla, io volevo chiedere a te e ad Alberto Pellai. Noi scopriamo che nostro figlio, uno dei nostri figli, è il ragazzino che ha portato via il CD all'autogrill. Noi lo scopriamo, lo troviamo a casa questo CD. Alberto, tu da padre e da direi padre di Questa casa non è un albergo, cosa faresti? E poi lo chiedo a Carla, che indosserà i panni di una mamma. Io credo che vada restituito ai figli proprio il senso della gravità dell'azione che hanno fatto, naturalmente non in modo da mortificarli o da trattarli male, ma dobbiamo fare il percorso al contrario, per cui io ti accompagnerò nel posto dove tu hai compiuto questo furto, ti sarò vicino nel momento in cui tu spiegherai esattamente le cose che hai fatto, e attraverso questo percorso ti sono vicino in modo non complice, ma in modo proprio adulto, purché tu mi prometti che una cosa del genere non succeda mai più. Carla. Sento solo di aggiungere un paio di cose, che sono queste. Innanzitutto far capire con estrema chiarezza, perché da quello che ho visto anche proprio andando nelle scuole, i ragazzi hanno bisogno di chiarezza, di certezza, cioè dire esattamente che cosa hai combinato, che quello è un reato, quindi che rubare è un reato, e in base agli strumenti poi che ognuno ha, spiegare quali sono le conseguenze. Giustamente, come diceva Alberto, senza spaventare, ma semplicemente dicendo chiaramente le cose stanno così. Carla, avete fatto un bel lavoro, secondo me, e io sono contenta di averti avuto nostra ospite, perché i nostri amici da casa, da questo libro, secondo me potrebbero trarre degli spunti di riflessione molto interessanti, e poi operativamente ci sono proprio delle soluzioni, il che cosa fare, che a me piace molto. Alberto, vuoi salutiamo la Carla? No, come si dice a Milano? Molto grati, vi ricordiamo il suo libro, Valeria e Luca, La legalità a misura di teenager, San Paolo Edizioni. Grazie. Okay. Carla. Grazie mille a voi. Buona giornata e grazie, buon lavoro. Buona giornata a voi. Questa casa non è un albergo. E siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione, parliamo di compiti, ne abbiamo trattato con Tata Lucia, che ha appena pubblicato per Rizzoli il suo nuovo libro, Fati compiti, un titolo e un invito, Alberto, molto chiaro, come ci ha spiegato la stessa Tata. Il titolo del mio libro si riferisce sì ai bambini, ma soprattutto ai genitori, che devono fare i loro compiti. C'è un ruolo specifico che i genitori devono giocarsi, devono fare i compiti anche loro oppure no? Dunque, diciamo che c'è un ruolo specifico che è interminabile per tutta la vita del figlio, che è quello di dimostrare nei riguardi dei compiti molto entusiasmo, molta curiosità, in modo che il bambino consideri fare, o il ragazzo consideri la scuola e fare i compiti un privilegio, non un obbligo noioso. E questo lì, qua tata ci vorrebbe una magia, non ci vuole una magia, ci vuole proprio questo entusiasmo di vita che è tipico del bambino, oltretutto, perché il bambino è un entusiasta, sì, della vita, e il genitore non può coprire questo entusiasmo, non deve, perché se no ne fa un essere che non ha voglia di vivere. Certo. E invece ci deve essere questo entusiasmo. D'altra parte abbiamo anche negli stessi film, eccetera, degli esempi bellissimi di questo entusiasmo. Io ricordo L'albero degli zoccoli, dove questo papà analfabeta prende il suo bambino di 6 anni che torna da scuola e con tanta curiosità gli chiede: cosa hai imparato a scuola? Me la ricordo, era bellissima. Bellissimo. E il bambino dice: mi ha detto che nell'acqua ci sono degli animaletti piccolissimi. È una cosa affascinante. Allora anche al giorno d'oggi un papà può prendere dalla cartella, non chiedere al bambino, perché il bambino spesso non risponde, ma chiedere al bambino, prendere il quaderno e dire: ma guarda che bella A che hai fatto. È una meraviglia. Tata, noi oggi riusciremo con i suoi consigli a far tornare la voglia di fare i compiti anche ai bambini che hanno iniziato magari con il piede sbagliato, vuoi perché hanno avuto magari dei genitori che senza saperlo hanno smorzato un po' i loro entusiasmi, o degli insegnanti che hanno preteso tanto, troppo poco da loro, magari no, non per mettere non per dare la colpa agli insegnanti, ma sa che è un po' come una partita tennis, una danza quella che devono fare i nostri figli nei confronti dei compiti, no? È uno scambio reciproco tra, certo, quello che apprende e le cose che vengono, certo, studiate. Bisogna ricordarsi che il comportamento è una cosa che si può modificare nell'arco di tutta una vita. Oh, questo mi piace, mi dà molta tranquillità, quindi, esatto, siamo in tempo anche Alberto sempre. Pellai io e Dio. Io lo dico, dai, sempre ai genitori che mi dicono: ma allora io ho sbagliato tutto. Beh, hai sbagliato tutto, dimentica di aver sbagliato e ricomincia, e puoi farcela. Assolutamente. Ci scrive Giuseppe, 2 figlie. Il compito dei genitori è quello di vigilare e di stimolare i figli rispetto al desiderio di apprendere e di imparare, evitando cali di interesse. Giuseppe quindi sposa in pieno la linea della nostra tata. Io voglio salutare però la nostra prof. Una tata per i grandi. Una tata per grandi. La nostra prof è la professoressa Paola Melo, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno a voi, che piacere risentirci. Bene, allora faremo i compiti anche con lei. Sì. Vorremmo dei suggerimenti. Pochi ma buoni. Ci passeremo dei bigliettini. Anche quelli aiutano. Allora Alberto, se tu sei d'accordo, abbiamo 3 lettere come abbiamo anticipato, ciascuna lettera ha un piccolo problema, inizierei a sentire la prima. Andiamo. Raccolgo il vostro SOS compiti. Io sono una di quelle mamme che, appena tornata dal lavoro, deve passare almeno 2 ore di fianco al proprio figlio perché ha sempre un sacco di compiti e lezioni, pur essendo solo in terza elementare. Quest'anno in particolare ci sono molte lezioni da studiare rispetto al passato, e io vedo che senza il mio aiuto non sarebbe proprio in grado di prepararsi in modo adeguato per le interrogazioni del giorno dopo. Perciò siamo sempre lì intrappolati sul tavolo a studiare, quando invece preferirei avere un po' più di spazio per me, e non vorrei trasformare il mio ritorno a casa in una continua corsa contro il tempo. Tata. Sicuramente poi il bambino a quell'ora lì è assolutamente stanco, quindi bisognerebbe che la scuola valutasse insieme al genitore quanto è opportuno dare di compito al bambino. Il bambino intanto dovrebbe essere sempre in grado di fare il compito da solo, e questo è compito dell'insegnante fare questa cosa, perché d'accordo, ci sono genitori che sono in grado di seguire il proprio figlio, ma voi immaginate un genitore che fa il fruttivendolo, il bambino fa i compiti nel retrobottega, cosa riesce a capire di quello che è stato insegnato a scuola? Quindi prima cosa, l'insegnante deve assegnare un compito che il bambino sappia fare in un tempo limitato, perché sì, alle 7:30, a parte che dopo cena dovrebbe andare a letto, questo è il mio il consiglio della tata, esatto, ecco, che vada, non dovrebbe fare i bambini, compiti, non dovrebbe fare i compiti dopo cena. Quindi se oltretutto deve farli da solo, il bambino deve essere in grado di farli da solo e in un tempo limitato. Direi che indipendentemente dalla scuola, e poi il problema dei compiti, insomma, forse uno se lo trascina dalle elementari, ma rimane anche fino al liceo. Andrei a sentire che cosa succede ad un ragazzino che frequenta proprio la scuola media. Ci dà l'opportunità una delle tante lettere, abbiamo selezionato questa. Sentiamo. Da quando Marco è entrato alla scuola media, in casa nostra non si vive più. Ogni sera, controllando diario, compiti e lezioni, ci rendiamo conto che Marco non ha imparato ad organizzarsi. E quindi molte cose che devono essere preparate per il giorno dopo sono ancora da fare. Passiamo i nostri dopo cena a torchiarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. E sia io che mia moglie siamo molto arrabbiati, perché lui dice di aver studiato durante il pomeriggio, ma in realtà arriva all'ora di cena avendo fatto meno della metà di ciò che sta scritto sul suo diario. Alle elementari tutto filava liscio, ma ora alle medie, con tutte quelle materie e professori, siamo nel caos più totale. E il solo pensiero dei compiti delle vacanze di Natale ci riempie di ansia e trasforma i prossimi giorni di festa in un incubo. Questo è un problema, direi, molto comune. Tata, proviamo a dare dei consigli però pratici, facili da seguire, che lei diceva si può sempre cambiare, ci si può, ecco. Evidentemente questo bambino, caricato della mole di tutte le materie delle medie, non ce la fa. Certo. Ecco, i genitori dopo un po' si spazientiscono, ma il problema rimane lì. Certo, evidentemente questo bambino non ha imparato un metodo di studio che avrebbe dovuto essere insegnato già dalle elementari, ma che comunque all'inizio della scuola media dovrebbe essere rimpostato dagli stessi insegnanti. Cioè, come dico io, preferirei dare poco ogni giorno, in modo che il bambino possa spuntare. Per esempio, ha un capitolo di storia da studiare per mercoledì prossimo, perché la storia ce l'ha al mercoledì e al venerdì, per dire. Allora è venerdì, dare un elenco in cui l'insegnante, il bambino possa spuntare giorno per giorno quel poco che impara. Lo so, di questo però capitolo. Tata lo sa che poi nella realtà non è così. Beh, questo, se proprio la scuola non lo fa, potrebbe farlo il genitore. Professoressa Melo, diamo qualche consiglio pratico. Dunque, innanzitutto la mia solita tabella orario di marcia. Sì, di questo ne abbiamo parlato e ci sembra una buona idea. Assolutamente, e di raccomandare ai più grandi, diciamo, di tenersi bene, con fedeltà direi, proprio all'orario che si sono imposti, e se capita di non riuscire a mantenerlo, magari programmare degli spazi alla fine della giornata per un recupero. Certo. Però quando io dico ai miei alunni quanto studi, se tu una volta rispondevi fino a quando io so l'argomento, almeno dalle medie alle superiori, devi dire studio perché questo argomento per un'ora, perché ho capito che io in un'ora posso fare quella cosa, studio quell'argomento in mezz'ora. Ecco, cercare man mano che si cresce di conoscere i propri tempi, sì, ma soprattutto non distrarsi con PlayStation, televisioni, cellulari, perché questi sono veramente purtroppo un po' nemici. Dovreste mettervi una volta e fare un piccolo dopo scuola, la nostra tata e la professoressa Melo. Noi abbiamo da offrirvi tutti i bambini di Alberto Pellai, che fanno già quasi una squadretta di calcetto. Io aggiungo qualcuno dei miei, insomma, e poi li tiriamo su. Quindi la tabella di marcia è fondamentale, sì. Ma io voglio dire, se, come capita spesso, e lo leggiamo dai nostri messaggi. Il bambino, il ragazzino arriva alla fine del pomeriggio e dice: mamma, non ho fatto i compiti, oppure la mamma lo scopre. Che cosa si fa? Si manda a scuola senza compiti oppure il genitore si mette lì vicino, seduto e cerca di andare avanti? Alberto, so che questa cosa è capitata anche a te e allora voglio entrare un po' nella famiglia Pellai per capire che cosa avete fatto. Allora, una delle strategie che noi usiamo è questa, cioè se è successo in modo un po' estemporaneo, non ce l'abbiamo fatta a controllare, ci mettiamo d'impegno e a questo punto cerchiamo di recuperare. Ma per esempio di fronte a un figlio che al sabato, alla domenica non vuole mai trovare il suo spazio per fare i compiti pur essendo stato sollecitato, il messaggio finale che arriva a metà pomeriggio della domenica è: se i compiti non sono stati fatti e finiti entro le 7, ti assumi tu la tua responsabilità.